Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nel primo appuntamento di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre tocchiamo un po' così di taglio l'argomento della casa. Molti avranno comprato casa tramite un'agenzia immobiliare. Ebbene, dalle agenzie immobiliari arrivano richieste, possibilità, preventivi, contratti ovviamente, ma a quanto risulta un'agenzia su tre, un terzo, chiede più del dovuto per quanto riguarda le provvigioni e le caparre. Di questo parliamo col presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Luca, un saluto a tutti gli ascoltatori. E dunque, già è difficile, complicato comprare casa perché il mercato è praticamente fermo, arrivare ad un mutuo è complicato, se poi ci si mette anche una provvigione o una caparra troppo alta, insomma, il consumatore ancora una volta rischia di rimetterci. Sì, questa volta amico abbiamo voluto affrontare un argomento non nuovo, ma non nuovo per quelli che sono gli argomenti che tratta l'Adico, ma tenendo conto di quelle che sono state le segnalazioni che abbiamo ricevuto nell'ultimo periodo e dei casi trattati, abbiamo deciso di proprio entrare nel merito di un argomento molto delicato, ed è quello che hai detto tu, proprio riguardano le agenzie, in particolar modo immobiliari, coloro che stipulano dei contratti di compravendita o di affitto, e che normalmente richiedono sempre provvigioni poche chiare e di cui il consumatore poi inevitabilmente si trova a rivolgersi nell'ufficio dell'Adico per ottenere non solo chiarimenti ma verificare anche se quanto richiesto è dovuto. Soprattutto voglio ricordare, amico, che questa è una di quelle attività che rientrano nell'ambito dello sportello sfratti e condominio che l'Adico ha messo poco tempo fa a disposizione per i consumatori, atto a risolvere e a dare assistenza a qualsiasi cittadino per qualsiasi problema che abbia a che fare la vita condominiale, non solo. E questo è il pre-condominio, ovviamente, prima di arrivare all'acquisto. La provvigione, credo, come in tutti i contratti e le vendite, sia calcolata sul valore complessivo dell'importo. La caparra è una sorta di anticipo e che serve appunto a coprire le spese nel caso poi l'affare non vada a buon fine. Ma qual è il limite che non bisognerebbe superare? Allora amico, tutto nasce proprio dai casi più comuni che l'Adico tratta, molto frequenti meglio dire, di cui ci sono persone che si sono rivolte a noi lamentando di agenzie immobiliari che gli hanno chiesto provvigioni senza che questi poi abbiano concluso il buon affare, semplicemente perché sono andate a rivolgersi ad agenzie immobiliari e questi hanno mostrato un po' di materiale e poi con il trascorrere del tempo, con il trascorrere di mesi magari la persona si è arrangiata o acquistato privatamente, non ha fatto nulla e magari qualcuno è tornato alla carica nella speranza di ottenere qualcosa. Allora innanzitutto cosa vogliamo dire? Che perché ci deve essere una provvigione ci deve essere il cosiddetto nesso di causalità. In altre parole il mediatore deve aver portato a conoscenza le parti di quelle che sono le clausole del contratto e il contratto poi deve essere giunto a buon affare. Cioè cosa si intende? Che se io posso come agenzia richiedere delle percentuali a te, bisogna innanzitutto che prima ti abbia spiegato esattamente quali sono le provvigioni e abbiamo convenuto insieme quale può essere la percentuale massima che queste devono essere dovute e in secondo luogo devono essere date solamente se si giunge a un buon affare, cioè la conclusione e la firma del contratto. Normalmente per la firma del contratto si intende non solo la stipula del preliminare ma anche la consegna dell'immobile, fermo restando che una provvigione può essere considerata ragionevole se non supera il 2%, anche se qualcuno normalmente cerca di chiedere addirittura il 3%. E quindi sappiate che poi nella fattura deve essere indicato questo come valore, il 2% che è calcolato sul valore complessivo del contratto. Per quanto riguarda la caparra invece, che è un'altra questione sempre presente nei contratti, intanto dammi questi soldi e poi? Purtroppo anche qua bisogna stare molto attenti a quando si dà la caparra, perché normalmente anche qui la caparra deve essere data solamente se si è sicuri di poter poi ricevere o acquistare l'immobile, in quanto ci sono capitati dei casi di persone che hanno dato la caparra Poi l'agenzia ha fatto vedere l'immobile, ha fatto firmare il contratto, la persona magari non ha più concluso l'affare oppure la banca non gli ha dato il mutuo perché non aveva le condizioni per poterlo ottenere, e conseguentemente la persona ha perso la caparra e l'agenzia tutto sommato ha svolto il suo lavoro, quindi rimane ferma sulla posizione di dire noi abbiamo fatto il nostro, se non l'ha comprato è affar tuo, quindi ci è dovuto quanto anticipato. Quindi anche qui la caparra deve essere una cosa che prima di dare bisogna essere sicuri, e soprattutto prima di firmare il nostro consiglio è quello di verificare tutte le condizioni, magari fare un passaggio presso gli uffici dell'Adico. È anche vero che questo problema delle agenzie immobiliari non riguarda solo per chi compra ma chi vende, ma riguarda anche chi affitta, perché poi abbiamo scoperto che ci sono agenzie immobiliari che non chiedono solamente la famosa mensilità come provvigione, ma chiedono addirittura una percentuale su quello che è l'importo della locazione richiesto nel periodo in cui uno magari sottoscrive il contratto. Ipotesi, il contratto dura un anno, due anni, ti do 500 euro al mese, in totale viene fuori 12.000 euro, ci sono agenzie che sono capaci di chiedere anche il 20% di quanto tu dovrai erogare come affitto. Per cui tutte queste situazioni che noi riteniamo che sono un po' troppo vessatorie nei confronti dei consumatori, abbiamo voluto portare alla luce proprio per aiutare le persone che si trovano in queste situazioni ad andare con molta cautela e soprattutto essere molto ragionevoli prima di firmare e concordare le condizioni che siano queste vantaggiose per tutti. Per la provvigione abbiamo detto 2% è ragionevole, per la caparra si va così un po' a stima? Allora, guarda, ti dico una cosa, normalmente quando le agenzie immobiliari come operano? Se tu vendi un appartamento da 150.000 euro, normalmente le agenzie immobiliari, c'è chi addirittura arriva a chiedere il 3% su 150.000 euro, ma pazienza, il 3% su 150.000 euro che sono 4.500 euro, ma poi le vanno a chiedere anche a chi vende, quindi chi vende, chi acquista, che sono capaci di ottenere sommariamente un circa 6%, e questo abbiamo detto che quindi non è certamente un dato ragionevole il 3%. Per quanto riguarda la caparra, invece, normalmente si cerca di dare, almeno per chi va in affitto in particolar modo, due mensilità, massimo tre, per chi c'è qualcuno che lo chiede anche tre, in quanto magari, visto i tempi che tanti non pagano, visto l'immobile, perché si tratta di pregio, ed un immobile di pregio vuole essere maggiormente tutelato. Mentre per chi vende e vuole la caparra, normalmente è buona norma non superare il 10%, fermo restando che c'è la possibilità di rilasciare e di richiedere in alternativa una polizza fiduciaria. Perché? Perché chi lascia dei soldi come caparra è bene che si faccia rilasciare una fideiussione come garanzia dei soldi che ha lasciato accantonati per conto di qualcuno. Allora, qualcuno vede diversamente, se qualcuno non ha i soldi può anche sapere che al posto dei soldi può rilasciare anche lui una polizza assicurativa o bancaria in alternativa a denaro. Bene, chiare e precise come sempre le indicazioni. Per ulteriori dubbi vi rivolgete all'Associazione Difesa Consumatori a Mestre in via Volturno. Grazie al presidente Carlo Garofolini, fra due giorni nuovo argomento. Grazie a te amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.